Quest'anno a Natale porta in tavola il gusto e la bontà di Aia. Acquista un prodotto Aia con etichetta del concorso dal 1 al 24 dicembre e partecipa al calendario dell'Avvento. Ogni giorno in palio tanti premi Philips. Regolamento su aiafood.com. Buone feste da Aia. Player One, get ready! Runtime Radio presenta Archeologia videoludica. Archeologia videoludica. Ebbene sì, dopo tantissimo tempo, tante richieste e soprattutto tante sollecitazioni da parte di alcuni ascoltatori, quelli che ancora si ricordano del fatto che esiste un podcast come Archeologia Videoludica, ritorniamo perché sì, è giusto, insomma, a un certo punto probabilmente faremo la stessa cosa anche con Archeologia Informatica, perché come vedete siamo molto attivi sul fronte video, sul sito, cerchiamo insomma soprattutto il canale YouTube di portare tantissimi contenuti che stanno anche riscontrando insomma anche un certo successo, e ci fa veramente piacere che il nostro lavoro comunque alla fine piace. Però è giusto anche ritornare con i podcast, perché i podcast sono la nostra origine, il punto da dove siamo partiti, e tanti ci dicono sì belli i video, ma quando è che tornate a fare i podcast? E quindi io, Simone Pizzi, con Carlo Sant'Agostino. Ciao a tutti, eccomi qua. Ci siamo presi in carico questa responsabilità, diciamo così, che poi alla fine ci sono alcuni temi che dico, vabbè, a parte che abbiamo detto Archeologia Videoludica in qualche maniera è ripartito col 2.0 proprio grazie a Carlo, perché dice ok, risistemiamo un po' di cose che era una cosa che abbiamo detto al suo tempo. Però questa volta parliamo di un argomento un po' strano, perché c'entra con archeologia videoludica, però non lo so quanto, perché noi ragazzi nati all'inizio degli anni 70, quindi siamo stati un po', diciamo così, la prima generazione ad avere il computer a propria disposizione, lo studiavamo, imparavamo a programmare, ci giocavamo anche sicuramente, anzi insomma forse in maniera anche preponderante, però comunque ci documentavamo, sapevamo più o meno di che cosa si trattava, come funzionava, però c'era sempre quell'aspetto anche un po' mitologico, no? Quell'aspetto un po' fantasioso che poi era derivativo dai film, dai libri di fantascienza, tutte quelle cose che poi alla fine comunque un minimo dentro di noi rimaneva, cioè nel senso sì, ok, tu tecnicamente studiavi come funziona il computer, però c'era sempre quel fascino del misterioso, del mistero, e questo mistero alla fine in qualche maniera, anche se probabilmente lo vedevamo noi o alcuni di noi, insomma la nostra generazione, si è poi trasferito in un qualcosa di particolare, in qualcosa che ha lanciato dietro di sé tantissime leggende metropolitane, perché era una cosa un po' strana, no? Infatti lo dice anche il titolo. E oggi, questa sera, con Carlo parleremo di Little Computer People, che ora cerchiamo anche di capire insomma che cos'è, che cosa non è, come è nato, roba del genere, insomma. Tu che sei nato come me, un po' prima di me forse, no? Sono del 70, ecco, sì, qualche anno un pochino prima di me, no? Cioè nel senso, poi alla fine quando eri giovane e approcciavi, no? Vabbè, tu eri già molto tecnico, sì, schematico, roba. Sì, diciamo che era diverso il mio approccio, ecco, rispetto a cioè, tu tutte queste fantasie non ce l'avevi. No, non ce l'avevo, però diciamo che in ogni caso Little Computer People è stato un qualcosa di importante all'epoca per tutti, anche io come te comunque l'ho voluto vedere, cioè volevo giocarci, volevo vedere come funzionava, cos'era questo mistero misterioso di Little Computer People. Che poi scusa, ti interrompo, poi dopo così mettiamo anche con le cose, cioè che poi in realtà lo abbiamo detto mille volte, nelle 10.000 cassette, nei tantissimi floppy disk, nei tanti titoli che noi avevamo a disposizione, che tante volte non sapevi neanche che cosa ci avevi, no, di fatto, fino a che poi non è nata la cosa dei file list, tutto qua. C'era questo giochino, no, appunto, questo Little Computer People, che tu lo caricavi, dici, ma che e che cazzo è questa cosa? Un po' così strana. Sì, se te lo trovavi per caso nei dischi, esatto, diciamo, copiati, eccetera, questa è un po' un'esperienza che hai avuto tu, che hanno avuto tanti italiani, perché sappiamo come funzionava in Italia in quel momento il mercato. Esatto, era un caso particolare. Però per chi seguiva magari già la stampa, io all'epoca leggevo già le riviste specializzate, le divoravo, del settore videogiochi all'epoca in Italia, e comunque seguiva un pochino il mercato, Little Computer People è stato qualcosa che ha creato un'enfasi notevole nell'editoria, cioè furono diversi gli articoli che ne parlarono, prese medaglia d'oro su Zap inglese, addirittura l'editoriale di Byte americano ne parlò, per dire Purnell degli Stati Uniti, quindi qualcosa che sicuramente ha creato un certo rumore, diciamo, e è importante ricordarlo. Allora, innanzitutto, io sai, inizio, mettiamo subito magari le cose in ordine. No, perché poi questa è la puntata dove cerchiamo di capire cosa è mitologia e cosa è realtà. Esatto, no? Nel senso, esatto. Quindi già mettiamo un attimino le cose in ordine, quindi cerchiamo di elencare le cose con un certo ordine. Allora, innanzitutto parliamo dell'anno. L'anno siamo nel 1985, ok? Quindi la preistoria, diciamo, dell'informatica e del videogioco, nel senso che nell'85 erano gli anni del primo grande boom del videogioco, quindi stiamo parlando dei primissimi anni dove si diffondeva il Commodore 64, per intenderci, stava iniziando ad avere gli anni 84-85, sono stati gli anni del grande boom del Commodore 64 a livello mondiale, e in generale dell'home computing, quindi contemporaneamente, perché il Commodore 64, il VIC-20 prima, ma soprattutto il Commodore 64 sono quelli che identificano un po' quel periodo di successo, no? E di passaggio dal mondo delle console, delle prime console di videogiochi, quindi l'Intellivision e l'Atari, agli home computer. In Italia avevamo lo Spectrum del 64, in Italia, in Europa, diciamo, in America l'Apple II e il Commodore 64 erano quelli un pochino che guidavano questo mercato, e quindi Little Computer People si inquadra in quel preciso momento, che poi è durato pochi anni, perché come ho già detto molte volte, poi il mercato dell'home computing è nato e morto in brevissimo tempo, lo ricordiamo noi, ma in realtà è stato un qualcosa che è durato pochi anni, sostituito poi dal mercato che poi abbiamo conosciuto tutti, quelli del personal computer, e della rinascita delle console nel mercato, quindi domestico. Comunque, ritornando a fare ordine, quindi diciamo 85, quindi in teoria l'anno prossimo sarebbe il 35 anni, sì. E questo ci fa sentire anni, anche vecchi, chiaramente, no? Perché... esatto, ce ne sono di cose, non è che mi fa sentire vecchio, non è che ci fa sentire... una più una meno, esatto, diciamo. Non è che ci fa sentire vecchio, è la verità, cioè, poi... è la verità, siamo vecchi, ma è quello è, diciamo che in quanto vecchi cerchiamo un pochino di insegnare qualcosa, di illustrare qualcosa, almeno di ricordare qualcosa, di istruire su quello che è stato. Come prima cosa, in scaletta avevamo messo l'autore, no? Sì, due note sull'autore, se ha comunque qualche importanza, perché chiaramente direi più che da qualche importanza, perché l'autore è considerato un po' la superstar dei videogiochi dei primi anni 80, cioè era il programmatore di videogiochi degli anni 80, cioè sto parlando di David Crane. Chi è David Crane, brevemente, per chi non lo conosce? Ecco, cercherò di fare molto riassunti, che se no facciamo una puntata di 7 ore. Come sempre, certo. Cerchiamo di tenerla, non so, cerchiamo di stare in un'ora, ce la facciamo. Dai, ci proviamo, Comunque, chi è David Crane? David Crane è il fondatore, come prima cosa che si può ricordare, è il fondatore di Activision. È una software house che tutti noi conosciamo, anche i giovani la conoscono perché esiste ancora oggi con lo stesso nome, ma Activision è importantissima nella storia del videogioco. Perché Activision è importantissima nella storia del videogioco, e lo è David Crane e i suoi colleghi con i quali ha fondato Activision. Perché nel 1979 nasce Activision, e nel 1979 il mercato del videogioco stava praticamente diffondendosi a livello mondiale. L'Atari era stata venduta alla Warner Bros., alla Warner Communication, e l'Atari VCS 2006 stava diventando la console, era la console più venduta al mondo, e i videogiochi stavano entrando, oltre che essere popolari nelle sale giochi, quindi come divertimento, come nuova forma di divertimento. Ricordiamo che il 79 è l'anno di Space Invaders, giusto per ricordare qualcosa di una cosa così, esatto, cioè proprio l'anno in cui il videogioco raggiunge tutto il mondo, tutti i media, e viene conosciuto a tutti i livelli dell'informazione e del divertimento. E Space Invaders c'era come cartuccio sull'Atari VCS, e tutti volevano VCS per Space Invaders. L'anno dopo, 80, sarà quello di Pac-Man, giusto per ricordare che periodo ci stiamo muovendo. Quindi il videogioco stava diventando qualcosa di importante, che muoveva miliardi di dollari dell'epoca già, cioè era diventato un mercato veramente importante. La Warner è la Warner Communication, quella che faceva i film, e aveva comprato l'Atari, che era il numero uno dei videogiochi in quel momento. Però in quel momento noi giocavamo ai videogiochi, e questo te lo ricorderai anche tu, nei primi anni che noi giocavamo ai videogiochi non è che sapevamo chi aveva fatto il videogioco. No, non, cioè, c'erano i nomi degli autori. Non c'erano i nomi dei videogiochi. Tu giocavi a Space Invaders, ma non è che c'era scritto chi ha fatto, chi ha programmato Space Invaders. Certo. Giocavi Pac-Man, non c'era scritto chi ha programmato Pac-Man. Diciamo che in generale, tranne in qualche rarissimo caso, tranne delle, insomma, di trucchetti, in delle realtà cose, proprio insomma, in quegli anni lì precisi, esatto, il famoso trucco di Adventure, eccetera. Di Adventure, ma comunque sì, in generale non è che sulla scatola era pubblicato gioco di, no, certo, perché era importante, ok? In quegli anni lì succede che questi programmatori che lavoravano in Atari, David Crane e altri suoi colleghi, che erano Larry Kaplan, Alan Miller e un altro che non mi ricordo come si chiama, sì, Bob Whitehead, sì, questo non me lo ricordo mai, e loro arrivarono in Atari per migliorare la programmazione interna dei videogiochi. Pubblicavano una lista dei giochi che avevano venduto di più nell'ultimo periodo, in modo che i programmatori che dovevano progettare nuovi giochi all'interno di Atari prendessero ispirazione da quelli che avevano venduto di più, per creare delle cose simili o comunque per ispirarsi. Da questa lista si è il buon David Crane si è accorso che i videogiochi che aveva programmato lui erano i più venduti in assoluto. Diciamo, sono forte, ammazza quanto sono, sì, forte. Diciamo, no, sono forte. Poi ha guardato, perché era pubblica la lista anche degli incassi, e aveva visto che i giochi che aveva fatto lui avevano incassato 20 milioni di dollari di incassi, okay? Ai quali 20 milioni, esatto, di dollari, dei quali lui ovviamente, non essendo lui accreditato, lo stipendio, no, ma a parte l'accreditato, si è guardato lo stipendio, e lui prendeva, che non era un brutto stipendio, però prendeva 20.000 dollari all'anno, che per gli, okay, anni, dai, non era male, comunque, insomma, non era male, però 20 milioni di dollari sono un po' diversi, certo. 20.000 dollari. Allora disse, siccome fare videogiochi era molto simile a fare musica, a fare film, a fare, noi lo sappiamo adesso, solo che all'epoca questo non veniva considerato, cioè già se ne è dovuto lottare negli anni successivi, figurati nel 79. Lui propose alla dirigenza dire: ok, noi facciamo i giochi, magari li facciamo anche più belli, magari ci impegniamo anche di più, però magari vorremmo anche, non dico apparire, ma almeno avere le royalty, certo, no? Se io faccio il gioco più bello degli altri, è giusto che prendo un po' di più degli altri. Quanto perché meno magari in produzione, dice. Esatto, quindi prendo degli introiti, perché come il cantante fa la canzone, la casa discografica incassa 20 milioni di dollari, però gli dà le royalty anche al cantante. Certo. Se un cantante vende di più, guadagna di più di uno che vende di meno. A lui sembrava una cosa logica. non ai dirigenti, non all'illuminato, a Rai Kassar, che come sappiamo, adesso non andremo nel dettaglio, ma per quello riascoltatevi magari le puntate dove parlavamo di Atari. Rai Kassar arrivava dalla vendita di elettrodomestici e considerava il videogioco un semplice elettrodomestico, niente di più, niente di meno. Infatti disse: no, che cacchio state dicendo, tu prendi quei soldi lì, fai videogiochi, che voi siete come quelli che fanno i tappeti, ok? Quindi fare un videogioco per Atari è come fare un tappeto. Quindi, la lungimiranza, però, vabbè, ma d'altronde, insomma, d'altronde, vabbè, ma siccome David Crane e gli altri sapevano quello che potevano fare, cioè avevano idea di cosa stava diventando il mercato, di quello che sarebbe successo, decisero di uscire e fare la loro etichetta, la prima etichetta indipendente di produzione di videogiochi. Attenzione, Activision, importantissima, fu la prima etichetta indipendente. Cosa vuol dire indipendente? Che non era legata alla produzione dell'hardware. Fino a quel momento chi produceva i videogiochi erano quelli che producevano l'hardware del videogioco, ok? Atari, Mattel, eccetera, Philips, tutti quelli che producevano videogiochi erano quelli che producevano l'hardware del videogioco. Quelli che più stesso. O meno oggi verrebbero chiamati sviluppatori di prima parte, insomma, no? Quindi, quindi sviluppatori interni, diciamo, insomma. Sviluppatori interni, chiamano come vuoi, cioè comunque era l'azienda che faceva la console, allora all'interno sviluppava i giochi per quella console, punto. Activision invece nasce come casa di software esterna, software house esterna, che produce videogiochi per tutte le console che erano in quel momento sul mercato. Quindi produce il videogioco per videogioco, prima cosa che è importante ricordare di Activision. Seconda cosa per cui è importante ricordare David Crane e Activision è che loro decisero di mettere sul videogioco, pubblicare, intanto che pubblicano il videogioco, l'autore del videogioco, nome, faccia, e pubblicizzare il videogioco come videogioco di fatto da, certo, come okay? Un'opera d'autore qualsiasi, come un'opera, anche perché dicevano questo è un plus, perché se io faccio un videogioco bello poi la gente vorrà comprare un altro videogioco che ho fatto io, siccome gli era piaciuto il videogioco che avevo fatto prima mi comprerà anche il videogioco che ho fatto dopo, certo. Ed era vero, era così, certo. Era esattamente così ed è la prima volta che accade. Quindi accade questo nel 79. Ora stringiamo, perché in realtà sì, non poi io se penso a Activision non viene in mente Pitfall, e c'è anche lì, c'è, esatto, perché c'è. Questo cosa succede poi? Nasce Activision e fa esattamente questo, e succede che poi producono i videogiochi che diventano dei capolavori assoluti, tra cui David Crane di nuovo. Lui inventa Pitfall e ci sarebbe, forse ci facciamo una puntata apposta, sì, sì. Apposta, che poi la cosa che io ricordo tantissimo soprattutto sulle cartucce Atari, poi magari questa cosa era anche nelle altre versioni, però le cartucce Atari dei giochi Activision, la scritta Activision c'era sempre a schermo che rotava, certo, col punteggio, certo. Se ti ricordi era il branding, certo, infatti era branding, ed è per questo che tu ti ricordavi comunque, cioè Activision oggi come imprinting proprio a 35 anni di distanza, esatto. Cioè, te lo ricordi ancora? Mi ricordo ancora la scritta, sì. Ricordo la scritta e non solo. Io vabbè, impazzì all'epoca per Pitfall e Pitfall 2 soprattutto in quel momento, e David Crane diventò il mio eroe. Cioè, io David Crane me lo ricordo come il mio mito della programmazione. Cioè, io ho iniziato a programmare videogiochi perché c'era David Crane, perché David Crane faceva videogiochi, ok? Quindi era la superstar, anche, è diventata la superstar, è diventato ispiratore, è diventato quello che sono adesso i vari Kojima o chi ne ha più ne metta. Cioè, tu adesso, per noi adesso è normale riconoscere l'autorialità nel videogioco, all'epoca succedeva per la prima volta. Sì, è anche cambiato tutto il processo di progettazione del gioco, sì, nel senso, vabbè, cioè capace, diciamo che l'autore del videogioco non sappia neanche scrivere una riga di codice, quindi cioè... Sì, questo diciamo che all'epoca non era così, non poteva essere così, insomma, però, insomma. Sì, ma in realtà no, perché già con Donkey Kong fu così. Quindi in realtà stava già succedendo, cioè il game designer si stava staccando da quella che era la programmazione vera e propria. In quel momento David Crane era, cioè, home and home, faceva tutto, ideazione, tutto più o meno, perché poi in realtà lui era molto bravo come programmatore, in realtà le idee del videogioco alcune erano sue, ma alcune veniva, diciamo, ispirato a destra e a sinistra, no? Vabbè, andiamo veloci perché sì, produce dei tantissimi successi. Produce Pitfall 2, Decathlon dell'Activision, e poi arriva Ghostbusters, non ricordiamo, non dimentichiamo Ghostbusters, quindi grandissimi successi, vendono milioni di copie in tutto il mondo e quindi fanno diventare grande l'Activision. A quel punto lo stesso Crane dice: voglio fare qualcosa che sia qualcosa di diverso, qualcosa di che rimanga, diciamo, dalla storia, no? E qui c'è un altro, diciamo, il co-ideatore di Little Computer People, perché in realtà l'idea di Little Computer People non è di David Crane, ma lui stava cercando di fare qualcosa e questa idea gli viene data da aspetta che non mi ricordo più il nome, me lo sono segnato, che non me lo ricordo più, vabbè, un'altra per vabbè. Ah sì, Rich Gold, okay. Eccolo lui, Rich Gold è il designer di Little Computer People, no? È quello che ha questa idea strana. Ok, lui dà l'input per l'idea, che è un'idea, esatto. Che è un'idea strana, perché io... è un'idea strana, esatto. Un'idea stranissima, cioè, quindi arriviamo al punto, cioè, quindi abbiamo raccontato chi era David Crane, quindi che è importante, che cos'era l'Activision in quel momento, ho già raccontato che stavamo passando dalle console ai computer, infatti David Crane con Decathlon prima e con Ghostbusters si sposta dalla programmazione dall'Atari VCS al Commodore 64, quindi inizia a programmare e sviluppare su Commodore 64. Ghostbusters è il primo videogioco che sviluppa completamente sul Commodore 64, che fu un capolavoro incredibile, se lo ricordi, no? Quando accendevi la voce digitalizzata, diceva allora, Ghostbusters. Allora il gioco era meraviglioso perché, cioè, faceva delle cose su 64, il gioco era una cazzata, diciamoci la verità. Vabbè, sì. Il gioco era un po' una mezza porcata, però era tutto l'insieme. Allora, uno era Ghostbusters, due c'era la musica, tre c'era la voce digitalizzata, tre la grafica anche. Allora, perché comunque... che non fosse longevo, sono con te. Ma se dobbiamo pensare proprio al videogioco, guarda che era comunque bello da giocare Ghostbusters, perché non era brutto. Sì, e poi erano i giochi un po' multievento. Aveva tre cose, ma era divertente da giocare. Alla fine non è che quando io comprai Ghostbusters all'epoca originale, penso l'unico in Italia, il negozio, no? Eccetera. Tra i pochi, diciamo. Non è che ne rimasi deluso da Ghostbusters, cioè era un gioco comunque divertente, quindi possiamo dire adesso si critica il fatto che avesse poca longevità. Sì, diciamo, sono d'accordo con te, cioè, allora non, oggi fai, io ho fatto un'affermazione che è più col senno del poi, no? Nel senso, oggi a distanza, vado a vedere un po' l'insieme di videogiochi su Commodore 64, magari, diciamo, insomma il gioco era poco, no? Però in realtà quando ci abbiamo giocato era... E devi considerare che è uscito nell'83, eh? Ok, quindi quando noi ci abbiamo giocato poi a Ghostbusters, in realtà in Italia ci avremmo giocato nell'85, noi, cioè già due anni, certo, dopo, e già era uscito di tutto e di più, ok? Quindi comunque ritorniamo a Little Computer People, quindi lui programma su Commodore 64, quindi sviluppa Little Computer People su Commodore 64. Lui è americano, ecco, dobbiamo notare anche questo, è importante, perché negli Stati Uniti il Commodore 64 era su floppy disk, cioè non esisteva la cassetta, un Commodore 64 con le cassette, cioè c'erano le cassette, ma proprio non lo usava nessuno con le cassette negli Stati Uniti. Lo usavamo tanto, e come biasimarli, diciamo che negli Stati Uniti era standard uscire il videogioco su floppy disk per Commodore 64, quindi viene sviluppato pensando al Commodore 64 e pensando al Commodore 64 con floppy disk. Ma andiamo proprio al gioco. Allora, non so, vuoi descrivere tu come te lo ricordi il gioco, poi intervengo io per correggere, tu parli un pochino della struttura del gioco, perché cioè noi possiamo allora proprio che cos'era Little Computer, allora prima di tutto sì, esatto, prima di tutto andando anche a memoria, perché poi chiaramente qui si tratta anche molto di andare a memoria, era una situazione estremamente disarmante, cioè nel senso, proprio perché noi eravamo abituati alla profonda interazione col videogioco, nel senso, noi giocavi il tempismo, il sompare, fare robe del genere, ti trovavi di fronte a una situazione, a un setting particolare che era praticamente la visualizzazione, anche una grafica carina insomma, di questa casa su più piani, dove c'era praticamente il tavolino d'ingresso, il telefono, il bagno, il pianoforte sopra, dove si vedeva la televisione, la cucina, la camera da letto e via dicendo, e un personaggio, un tizio, un guy, lo chiamo così, che gironzolava per casa e faceva cose. Ora, faceva cose, per come lo vedevo io inizialmente, pensavo anche in maniera del tutto casuale, no? Poi mi ricordo che un minimo di interazione, cioè, perché io mi ricordo si poteva suonare il campanello, se non mi sbaglio, della porta. Non solo, sì. Ok, gli potevi consegnare i libri col campanello, gli consegnavi delle cose. Ok, sì. Quando suonavi il campanello era perché gli volevi regalare qualcosa. Okay. Un libro, un film, un disco di musica. Tu comunque un minimo di interazione, che adesso non ricordo a che livello di. L'interazione era elevata, era un'interazione in stile adventure, testuale. Cioè, tu scrivevi i comandi e parlavi con la persona. Aveva dei verbi riconosciuti, sì. E l'interazione era un classico parser delle adventure. Ci sono 160 parole che venivano riconosciute, cioè tu potevi scrivere quello che volevi, ma lui riconosceva queste 160 parole come un adventure dell'epoca. Ebbene, questo lo sapevi questo? No, non lo sapevo. Non sapevo che erano 160 parole. Mi ricordo sì che si c'era l'interazione, si scriveva cose, no? Allora, per quel poco d'inglese che uno magari sa. Allora, diciamo che proprio tu l'hai vissuto a caso, diciamo. Molto a caso. Ma per questo io non dicevo. Non sapevi cosa fosse, ti è arrivato boom. Esatto, è proprio questo che ti dicevo, perché un software, quindi tra virgolette, sempre chiamiamolo videogioco come Little Computer People, poi alla fine, per chi non era aggiornato, informato, per chi non leggeva le riviste, roba del genere, era diventato poi uno strumento portatore di mitologia, cioè perché poi dopo nascono le leggende metropolitane, no? Cioè, sulla l'intelligenza artificiale, cioè l'omino che vive nel computer per davvero, no? Cioè, nel senso, si arrivava a tutto, no? Cioè, nel senso, vai. Tu hai beccato esattamente lo spirito con cui volevano e con cui hanno venduto Little Computer People. Allora, perché innanzitutto il nome completo del videogioco non è Little Computer People, perché noi lo chiamiamo Little per brevità, però il nome completo del videogioco quando è uscito si chiamava The Activision Little Computer People Discovery Kit, cioè il kit di scoperta delle piccole persone del computer dell'Activision. Esatto. Ok? Quindi, come era pubblicizzato il gioco? Sulle riviste, su come veniva venduto, sulla scatola, nelle istruzioni quando lo compravi. Era pubblicizzato dicendo: all'Activision abbiamo un centro di ricerca che ha scoperto che dentro il tuo computer vivono delle piccole persone. Ok? Quindi noi abbiamo creato questo kit che se tu lo compri, è un kit che noi ti diamo e con per scoprire, kit andare a vedere che ci esatto, sarà. Tiri fuori questa personcina che vive dentro il tuo computer, che noi abbiamo scoperto che è lì e ci puoi interagire, ci puoi parlare, però tu sai che questa persona vive dentro il tuo computer. Quindi già questo era una roba assurda per l'epoca. Fuori di testa, esatto. Che poi in realtà ha dato il via a un sacco di cose che sono avvenute dopo, no? Arrivare al Sin Life e ai Tamagotchi, Tamagotchi derivano tutti da Little Computer People. Little Computer People quindi aveva questa idea stranissima, cioè diceva... abbiamo scoperto che nel tuo computer vivono queste persone e quindi tu le devi ti diamo questo dischetto col quale tu tiri fuori questa persona dal computer e ci parli. Il concetto è divertente, ma come è stato realizzato? Quali sono le novità introdotte in assoluto con Little Computer People? Prima di tutto che era un gioco non gioco, quindi come dici tu c'era un omino che faceva qualcosa, quindi non è propriamente detto un videogioco, no, infatti non... però Purnell nell'editoriale che scrive su Byte quando esce Little Computer People dice è vero, non, è un gioco non gioco, non è un gioco, però prende tutto il mio tempo di gioco, quindi alla fine è un gioco. Perché lui dice era talmente divertente interagire con questa persona, parlare con questo omino dentro il computer, che alla fine le ore che lui dedicava al videogioco erano prese da Little Computer People, quindi diventava il videogioco. Beh, oggi lo chiamano, avrebbero chiamato un metagioco, perché alla fine era proprio questa, sì, diciamo che contaminazione tra la fantasia, no, esatto, del concetto di partenza, che comunque lì veramente ti faceva scoppiare, perché è come quando ti dicevano che dentro le cellule del tuo corpo ci sono dei microuniversi, perché magari noi viviamo, esatto, nella cellula di qualcun altro, no? E questo è un meccanismo sciocco, ma anche primitivo, che in qualche maniera alla fine esplode dentro il cervello delle persone e inconsciamente, sì, le persone l'hanno subito. Poi chiaramente quelli meno anche preparati, no? Cioè quelli che non si ponevano il problema di che cos'era, chi era l'autore o roba del genere, dice no, cioè, ma questo sta veramente là dentro, cioè nel senso, aiuto. Sì, sì, ma molti ci credevano veramente. Allora, noi lo sappiamo, poi faremo la puntata speciale, adesso non parliamo di intelligenza artificiale, no, perché sennò lì parte una puntata diciamo che annunciamo che ci ricolleghiamo da questo ci ponte per arrivare ad archeologia, a una puntata di archeologia informatica dove parleremo appunto di intelligenza artificiale. Allora, brevemente, comunque proprio per dire due parole, l'intelligenza artificiale come intelligenza non esiste, in realtà sono degli algoritmi che simulano un modo di interagire, di ragionare, quindi anche in questo caso è una simulazione, esatto, povera in questo caso, perché è su pochi K, di interazione con un'altra persona, ok? E diciamo, allora, scusa, proprio con le risorse limitate del Commodore 64 il risultato era comunque straordinario, no? Nel senso, assolutamente, nella sua limitazione, no? Cioè, vai. Entrerò nel dettaglio tecnico. Allora, innanzitutto è bellissima vedere, ricordo solo brevemente la lettera che ti davano insieme alla lettera di le istruzioni che c'erano. Quando tu lo comprai, dicevano, c'era dentro una lettera firmata da David Crane che diceva: benvenuto nel gruppo di ricerca delle piccole persone che vivono dentro il tuo computer. E ti spiegava: allora, questo adesso con dischetto tu lo metti dentro e noi tireremo fuori la persona che viene tuo computer. Una cosa importante, era stata la prima volta in assoluto che un videogioco è unico per ogni copia venduta, e questa è una cosa molto importante, una cosa che tu non hai vissuto. Dopo ti spiegherò perché la tua versione su cassetta era limitata, perché la versione che è uscita su cassetta era una versione, diciamo, tagliata, okay, certo, vero, Little Computer People, che castrata, sì, esatto. Il gioco originale Little Computer People, che ricordiamo esce nell'85, esce in versione Commodore 64, Spectrum e Amstrad. Commodore 64 è quella vera, sviluppata negli Stati Uniti da David Crane. La sede inglese della Activision decise di fare le versioni Spectrum e Amstrad di Little Computer People, e la versione su cassetta di Little Computer People, che però sono versioni, come spiegherò dopo, leggermente ridotte, perché la versione originale di poi nell'87 invece esce un'edizione rinnovata per i 16 bit. Mi ricordo c'era uno per Amiga, sbaglio? Sì, nell'87, okay, esce in versione Apple II, Atari ST Amiga, ma esce 2 anni dopo. Torniamo alla versione originale, quindi l'85, Commodore 64. Esce per Commodore 64 su floppy, e David Crane fanno un accordo, l'Activision, con il duplicatore, perché producesse dei floppy disk dove ogni floppy disk aveva un codice scritto sul flop, cioè masterizzato, cioè un 256 byte praticamente, che erano un numero progressivo incrementale, quindi non c'era un dischetto uguale all'altro. Cioè, se tu compravi Little Computer People, dentro c'era un numero che era solo di quel dischetto e non degli altri. E quel numero lì è usato alla partenza del gioco per generare le caratteristiche del Little Computer People, dell'omino che vive dentro il computer. Per dare diversificazioni, quindi, no? Fa vedere che sì, vuol dire l'omino nel mio computer è diverso dal tuo. sì, ma sul serio, cioè non era una cosa inventata, è proprio così. Cioè, se tu compravi una copia di Little Computer People, quel numero era solo ed esclusivamente di quella copia di quel dischetto, e un altro che lo comprava aveva un altro numero, quindi l'omino che veniva generato da quel numero era un generatore che, partendo da delle caratteristiche predefinite, le montava in base a come era costruito quel numero, quindi e costruiva il carattere anche dell'omino, cioè come questo, se era più nervoso, se era meno nervoso, se era più sedentario, se suonava, se gli piaceva più la musica, se gli piaceva più guardare la tele, se gli piaceva, cioè anche proprio il carattere stesso di delle cose che faceva era definito da quel numero, oltre all'aspetto e al nome. Il nome, anche quello, variava in base a questo numero. In realtà i nomi non erano tantissimi, lui ne aveva usato un byte per definire i nomi, quindi erano 256, in teoria 256, perché in pratica erano di meno, perché cosa è successo? Adesso vado a trovare la riga. In realtà i nomi esatti del dove era? 252, perché cosa è successo? David Crane aveva creato il byte di 256, quindi un byte per definire 256 nomi diversi, però quelli che hanno compilato poi l'elenco di nomi si sono sbagliati nella scrittura e hanno ripetuto due volte quattro nomi, che erano Patrick, Peter, Joseph e Justin, erano doppi. Quindi in realtà sono 252 i nomi possibili dell'omino. Quindi quando tu inserisci il floppy per la prima volta e fai partire Little Computer People, lui ti chiede di inserire i tuoi dati, il tuo nome, perché poi l'omino interagirà con te chiamandoti per nome, la data, eccetera, e questa viene registrata sul floppy disk e viene generato il personaggio per la prima volta e scritto sul floppy disk. C'erano cinque tipi diversi di omino. C'era uno giovane con le orecchie, uno giovane col cappellino, uno con gli occhiali da sole, e poi c'era un uomo di mezza età e quello vecchio con i baffi. E poi quindi generava nome a caso, cioè non a caso, basato sul numero che c'era dentro il tuo floppy, tipo di faccia, vestiti, colore dei vestiti e soprattutto il carattere, dell'omino. Quindi l'indole del personaggio. Quindi questa era un'idea geniale. In pratica ogni disco effettivamente conteneva un personaggio che si comportava e faceva cose diverse da un altro disco e da un altro personaggio. David Crane dichiarò in un'intervista che il gioco ebbe un notevole successo all'epoca, perché appunto fu visto come una cosa strana e nuova, che addirittura ricevette la lettera di una nonna che aveva comprato due Commodore 64 con due floppy e due copie diverse di Little Computer People per far giocare i suoi nipoti, e ognuno aveva il suo omino diverso, ovviamente. Ma c'aveva anche i soldi per una vecchietta, insomma. Beh, americani, quindi America era, costava poco il Commodore 64 per gli Stati Uniti. Ritornando quindi alla generazione, quindi veniva generato il personaggio e tu interagivi con questo personaggio in questa casa, quindi questo omino tu accendevi e nasceva il Little Computer People, nasceva questo personaggio, iniziava a fare cose all'interno della casa, quindi c'era il bagno, la camera da letto, c'era il soggiorno, c'erano tutti i locali, e lui poteva andare a guardare la televisione, leggersi un libro, andare a mangiare, e tu sopra avevi un parser. Il modo di interazione era derivato da quello che si conosceva all'epoca, più vicino a quella che era l'interazione possibile con una similitudine di interazione di realtà virtuale, che erano i parser degli adventure. Gli adventure esistevano già da anni e quindi esistevano, si conosceva la tecnica di fare il parsing di frasi utilizzando delle parole chiave, quindi non so, i famosi adventure: prendi l'oggetto, usa l'oggetto, apri la porta, vai a nord, vai a sud. Era stato riportato utilizzando queste 160 parole col quale tu interagivi con l'omino, e gli potevi dire di, non so, vai a suonare, suonami qualcosa al pianoforte. Poi questo, a seconda di come era generato il carattere, poteva anche mandarti a quel paese oppure andare a suonare al pianoforte. Potevi scrivergli, scrivimi una lettera. Il modo come lui aveva per rispondere era di andare alla macchina da scrivere e sulla macchina da scrivere scrivere una lettera a te e quindi risponderti, diciamo, dicendoti delle cose tipo ciao, sto bene, sono felice, sono contento. Poi tu potevi fare diverse cose, tipo, non so, accarezzarlo sulla testa, tipo tap tap sulla cava per dirgli bravo, e lui era contento. Ecco, ricordiamo che poi aveva anche un animale, lui aveva anche un cagnolino all'interno della casa, quindi c'era il tuo personaggio col suo cagnolino che girava in giro per la casa, quindi dovevi dare da mangiare al cagnolino, ricordarti poi di far arrivare le cose alla casa, quindi come il concetto che poi ha preso Tamagotchi dopo, dovevi fargli arrivare il cibo in casa, quindi per quello suonavi il campanello e gli potevi consegnare cibo, ma anche un disco nuovo che poteva mettere nel giradischi, un libro nuovo che poteva leggere. Potevi giocare con lui, potevi dire giochiamo a carte, lui andava al suo computer e giocavate a poker a soldi, quindi mettendo i soldi potevi anche prendergli dei soldi, e se lui perdeva magari si arrabbiava. C'è una persona che ha scritto, su ricordando il gioco Little Computer People, che una volta ha giocato tipo una sessione di un'ora di poker in cui gli ha tirato via tutti i soldi, e l'omino si era arrabbiato tantissimo e non gli ha parlato più per tipo un'ora. Girava per casa e non gli scriveva e non gli parlava più. Anzi, sì, poteva chiudere anche il programma a quel punto. Esatto. Poi come i Tamagotchi, se tu non stavi dietro all'omino, lui si poteva ammalare, diventare sick, ammalato, aveva degli stati che erano visualizzati con una faccina, che poteva essere happy, content, che era normale, sad era triste, sick era malato. Se si ammalava e poi tu non lo curavi, non gli stavi dietro, non ricominciavi a parlare, poteva morire, e quindi era game over. Ma game over vero, nel senso che quando Little Computer People andava in game over, fine, cioè tu mettevi dentro il dischetto, andava più. Che sa, okay, esattamente, cioè, quello che facevano, cioè, i Tamagotchi, che si sono inventati. Esattamente. E anche lì diceva che addirittura c'era tanta gente che scriveva in Activision, che chiamava, ma è morto, ma io non volevo, eccetera. Allora avevano messo su una clinica della Little Computer People in cui in Activision gli rispedivano, diciamo, il dischetto con lo stesso codice per poter ricominciare col suo omino, esattamente il suo omino, cioè quindi quel codice che generava l'omino della persona che con cui stava giocando. Quindi immaginati queste cose, tu le hai vissute poco, perché hai avuto all'epoca una copia pirata, ti è arrivata la copia su cassetta. Cosa aveva in meno la copia su cassetta? Non registrava e non aveva il codice, quindi l'omino veniva generato a caso. Ogni volta che partivi una partita ti generava un omino nuovo che durava il tempo in cui tu tenevi il computer acceso e spegnendo finiva. Esatto, sì. Quindi era una versione un pochino ridotta, diciamo, del concetto e poi non aveva dei giochi, tipo non c'era il gioco degli anagrammi o altri giochi che potevi fare con l'omino, mentre con quella floppy potevi giocare a diversi giochi con lui. E questo per dirti che tipo di esperimento pazzesco fu Little Computer People all'epoca, quindi il tipo di enfasi che ebbe sulla stampa specializzata e anche il successo che ebbe tra la gente di quel momento. Infatti i programmatori di SinLife hanno dichiarato che furono proprio, cioè il loro gioco ha ispirato comunque in parte al concetto di Little Computer People, è dichiarato. Beh, ma è chiaro che quando una cosa così particolare, così originale, e che arriva dall'epoca delle radici, no, alla fine comunque non puoi, anche, cioè, dicendo, anche non ammettendolo, non puoi comunque negare, no, che tu non abbia preso, certo, ispirazione da qualcosa come questa. In particolare questo era talmente un esperimento unico, no? Non è che dicevo, però il tuo gioco assomiglia a Space Invaders, e ok, puoi aver preso ispirazione. Questa parla veramente di una cosa unica, che probabilmente alla fine ogni ripetizione che c'è avuto nella storia ha comunque attinto, no, in qualche maniera. Assolutamente. Ma infatti secondo me poi alla fine la grande genialità, poi a parte che è appunto quando io ho detto parlare di Little Computer People può sembrare una scemenza, perché uno dice, ma che, cioè, era quella cazzatina lì, no, ma cioè era chiaro che dentro, cioè dietro c'era qualcosa, no? E quindi era anche chiaro che ti creasse una suggestione in qualche maniera, soprattutto all'epoca, perché appunto non tutti erano pronti, non tutti erano informati, e quindi il gioco di un personaggio che in qualche maniera appariva indipendente ti metteva anche suggestione, no? Cioè, anche suggestione oltretutto, cioè, quindi era... assolutamente, era esattamente quello che volevano ottenere in Activision, era questa suggestione, questo convincimento. Un'altra dichiarazione divertente che ha fatto Crane in un'intervista è che quando faceva le interviste su Little Computer People all'epoca, e magari lo chiamavano le riviste di settore, gli chiedevano ma quanti verbi conosce il parser, quante parole può riconoscere, e fa, ma cosa stai dicendo? È un omino, ci puoi parlare, gli puoi dire quello che vuoi. La sua risposta era così, si divertiva, no? Vabbè, chiaramente. Gli puoi dire quello che vuoi, chiaramente. Cioè, non raccontava quello che c'era dietro tecnicamente, perché volevano alimentare questo mito dell'omino che viveva dentro il tuo computer. Che era giusto così poi alla fine, perché era cioè, così. Nel senso, andare a smembrare la leggenda, il mito che si crea con i tecnicismi, alla fine era triste, no? Nel senso... assolutamente, lo facciamo noi adesso, ma perché ci piace ricordare anche quanto di innovativo ci fosse in questa cosa. Infatti, cioè, volevo poi che... magari a fare qualche appunto, se ci sono delle note particolari sulla programmazione di questo gioco, cioè nel senso, se c'erano. Sì, ci abbiamo diversi. C'è un sito che è proprio si è occupato. Un sito che si occupa della preservazione dei titoli, che ha studiato il caso di Little Computer People proprio per il fatto che i floppy non sono uguali. Quindi, come facciamo a preservare esattamente questo gioco? Dobbiamo capire come facessero, come era la copia master e come facessero a creare i vari floppy diversi, se vogliamo preservare il gioco originale. Perché io, se compro anche adesso su eBay eccetera, trovo delle copie, troverò o delle copie giocate, quindi già scritte, o delle copie nuove che comunque sono una diversa dall'altra, perché ognuno c'ha un codice diverso. Quindi chiesero proprio scrissero una lettera a Crane per chiedergli come aveva fatto a fare questo gioco, cioè come funzionava il sistema di ricostruzione. E infatti poi in questo sito ti puoi per esempio scaricare, ci sono le immagini dei floppy di 64 con tutti i nomi dei personaggi, e ti puoi scaricare l'immagine col nome che vuoi tu per poter giocare al gioco di Little Computer People. Tu, ecco, tu ci giocavi a Little Computer People? Cioè ce l'avevi? Allora, però io all'epoca all'epoca cosa tu poi c'avevi lo Spectrum. Io ero molto interessato. Esatto, io all'epoca ero molto interessato a Little Computer People perché ne leggevo sulle riviste e avevo capito cosa fosse e che cos'era, quindi ci avrei voluto molto giocare, diciamola così. Però ci giocai in realtà con l'Amiga anni dopo, perché all'epoca lo immaginavo soltanto, lo vedevo sulle riviste e non ci potevo giocare, anche perché la versione Spectrum, a parte essere su cassetta, solo che all'epoca non lo sapevo, era anche solo per Spectrum 128K. Quindi comunque immagino sì. Lo Spectrum 64K 48K, e quindi era per Spectrum 128 e oppure per Amstrad CPC in Inghilterra, che qui l'Amstrad non c'aveva nessuno, quindi ci giocai poi alla versione Amiga, che era poi ci arriviamo alla versione Amiga, perché poi parliamo anche delle versioni, però ecco, a questo punto però lo sfatiamo definitivamente. Comunque non c'erano elementi di intelligenza artificiale dentro, cioè nel senso l'omino comunque non aveva... No, allora non è vero che non c'erano elementi di intelligenza artificiale, cioè questo, come ti ho detto prima, lasciamo perdere l'argomento perché esatto, quello, sì, se vuoi ne parliamo per tre quarti d'ora, però questi, cioè algoritmi di questo tipo di interazione sono comunque algoritmi di base comunque di intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è codice, programma, poi ne parleremo in dettaglio nella puntata, però come ti dicevo prima, quando parliamo di intelligenza artificiale in questo momento stiamo parlando di algoritmi di intelligenza artificiale, che è la cosiddetta intelligenza artificiale debole, cioè quella basata su algoritmi di reti neurali, ok? Quindi qualcosa comunque come ti ho detto, tecnicamente bisogna approfondirne e parlarne, ma non c'entra niente. No, no, ma comunque con l'autocoscienza. Ne parliamo perché c'ho degli elementi che mi sono messi da parte, no? Cioè, nel senso, sono delle cose che mi sono messo da parte, tipo degli articoli o roba del genere. E quando alla fine della trattazione, quando ne parleremo, poi tirerò fuori tutte le cose e tu dirai: ah, va, va. È come giusto che sia. Comunque, parliamo delle conversioni invece, appunto, del computer. Cosa succede? Dietro al computer ha un buon successo, non diventa un videogioco che vende come i best seller di Activision. Vabbè. Però vende comunque tanto. E nell'87 esce la versione budget per i primi tre computer per cui era stato creato, quindi il Commodore 64, lo Spectrum e l'Amstrad. E in più vengono create delle nuove versioni per i 16 bit, quindi per Amiga e Atari ST. In questo caso, siccome nell'87 nei primi anni non c'era ancora quella cattiva abitudine di fare il gioco sull'Atari ST e poi convertirlo su Amiga, ma venivano sviluppati indipendentemente, cioè un gruppo di programmatori fanno la versione Amiga e un gruppo di programmatori fanno la versione Atari ST, come faceva la Sierra, che faceva i giochi su Atari ST e poi facevano schifo le versioni di Amiga, insomma. Sì, la Domark e tante altre, cioè, e questa fu un'abitudine che poi si prese dopo per ottimizzare i costi di produzione, come quello di fare i giochi su Spectrum e poi portarli su MSX e su Amstrad, perché la base era la stessa. Ma invece a quell'epoca, nell'87, l'IT Computer Pio viene programmato, infatti le due versioni sono molto diverse, sia graficamente sia come velocità eccetera, però in realtà hanno tutte le caratteristiche che aveva la versione originale del Commodore 64, quindi floppy disk ognuno diverso dall'altro, con un codice che genera l'omino uno diverso dall'altro, e viene generato quindi questo omino. Diciamo che non viene aggiunto nulla di più a livello di gioco, quindi erano delle buone versioni, ma usavano solamente la grafica in più che aveva la Atari ST e l'Amiga e nient'altro rispetto a quello. Quindi che, la versione Amiga cioè non aggiunge niente, fondamentalmente non aggiunge niente neanche quella per Atari ST dal punto di vista del gioco di per sé stesso. I diritti della produzione sempre nell'86, viene creata anche la versione Apple II, che è una versione uguale anche quella del Commodore 64, con la grafica più brutta. Sì, infatti, si vede notevolmente la grafica più brutta. Sì. Era la grafica dell'Apple II, quello era, quindi ci si potesse. Devo dire che la versione Spectrum, considerando i limiti, no? Cioè, le problematiche. Sì, era graficamente era manco brutta la versione Spectrum. Sì. Quella per Amstrad addirittura aveva una grafica anche migliore di quella del 64. Però erano comunque versioni su cassetta, e quindi non avevano quelle funzionalità aveva la versione del 64. Quindi Atari ST, Apple II, Amiga, e poi soprattutto ne escono due versioni per il mercato giapponese, per i computer giapponesi e computer tra virgolette, nel senso che ne esce una versione di Little Computer People per il Famicom Computer Family System, che è il Nintendo, il NES. Okay. Solo il NES in versione computer con floppy. Sai che in Giappone il NES era uscito prima come computer con floppy disk da 3 pollici. No, dal tuo silenzio non lo sapevo. ma perché mentre che ascolto te, fosse una cosa mentre sto guardando le varie versioni dell'Intel Computer People, sì, io poi ho raccolto i vari link. Comunque quella per il Family Computer System del NES è una versione strana, perché praticamente in Giappone prendono i diritti di viene fatta dalla Square Enix. Sai chi è la Square Enix? Certo che sì. Square. Come non la conosco. Esatto. Un giocatore di Final Fantasy come me che non conosce la Square Enix, insomma. Anzi, la Square La Square viene realizzata questa versione per il Family Computer System, che al posto dell'omino c'ha una donnina, quindi non è un uomo ma è una donna, e non c'è un cane ma c'è un gatto. Quindi proprio giapponese. E in più ci aggiungono dei giochini nuovi, insomma, la casa è disegnata diversa, insomma delle cose diverse, però il concetto di gioco quello è. Ne esce anche una versione per il PC 8088 della NEC, che in quel momento era il personal computer più diffuso in Giappone nell'87 e anche lì quella invece è più simile all'originale rispetto a quella della Square, però anche lì l'omino non è un omino ma è una donna, però anziché essere una bimba come nel caso in quello del NES è una donna più o meno della stessa età. Ma quello del Famicom è veramente brutto, cioè proprio forse la versione più brutta, cioè tra quelle che ho visto, a parte quella dell'Apple, che chiaramente veramente pure quella stava piuttosto bruttina. Graficamente forse quella per Amiga è quello più carino. Però insomma, alla fine dicendo che non aggiungono niente, io la domanda che stavo per fare era qual è la versione migliore. Alla fine rimane quella originale su Commodore 64, quella originale su Commodore 64 su floppy, per tutti i motivi. Sì, la versione originale programmata da Dick Crane è ancora la migliore, e anche se la vedi anche come fluidità dell'animazione dell'omino, come concetto di come è stato costruito, insomma c'è tutta una serie di cose che capisci che era stato fatto e programmato lì sopra per quel computer, cioè le altre sono derivazioni alla fine, quindi non è... La qualità, comunque il gioco bello è Little Computer People. No, ma infatti, cioè, secondo me già su Amiga non c'aveva più senso, cioè nel senso sì, no, però non c'aveva lo stesso senso, lo stesso significato che ci poteva avere su Commodore 64. Quindi... Esatto. Senti, vai, scusa. Una cosa divertente solo da ricordare della versione a 16 bit per Amiga e per Atari ST è che se tu la copiavi c'aveva una copia, una protezione della copia che si accorgeva di essere una copia pirata, l'omino appariva e sullo schermo bussava lo schermo e ti faceva col dito no. Che stai a fare? Non si fa. Bravo. Esatto. È carina sta cosa. Cioè, insomma, avrebbero potuto poi replicarla in tantissime altre situazioni. Alla fine poi nel senso, un software così particolare, come abbiamo detto anche prima, no? Nel senso, ha chiaramente influenzato ed è diventato derivativo, no? Cioè, anzi, ha creato tutti elementi derivativi da esso, diventando un po' la genesi di un fenomeno che ha ondate, a volte è tornato, a volte no, perché insomma poi alla fine non è che queste cose, anche come diciamo il Tamagotchi o roba del genere, non è che sono sempre state presenti, ci sono momenti in cui esplodevano, no, momenti esatto. Che nascono. Adesso per esempio un periodo che, ma forse perché in questo momento già i giochi attuali hanno un livello di interazione con qualcosa che sta all'interno del computer che è talmente elevato che non se ne sente questa, diciamo, necessità. Allora il fatto che tu mi fai un Tamagotchi, che è l'animaletto digitale, anzi elettronico o digitale, che dai al bambino, allora lui può essere un po' influenzato da sta cosa, e poi ti viene, poi quando muore ti dice no, oh, cazzo, è morto, e ti senti in colpa un po'. Tu poi, noi ovviamente antropomorfizziamo tutto e quindi in qualche maniera ci immedesimiamo su sta cosa, però chiaramente, cioè, per uno adulto oggi nei super computer ci abbiamo, cui giochiamo, roba del genere, mettete una cosa del genere, insomma, ci potrebbe avere. Però The Sims penso che sia un po' l'estensione. The Sims, esatto. Al massimo livello, perché poi lì la cosa diventa veramente talmente articolata e variegata che penso, insomma, che alla fine sia il degno successore, per certo, gli rende assolutamente onore, ma è dichiarato, cioè, come ti ho detto, l'autore, l'inventore di The Sims ha dichiarato che la fonte di ispirazione fu Little Computer People all'inizio. Quindi altri software o giochi o cose del genere che ti vengono in mente oltre Tamagotchi e The Sims, così indicativamente a spanno, che possono essere diciamo stati ispirati in qualche maniera o comunque possono essere direttamente... Ma guarda, in realtà un sacco di, quasi tutti i software di interazione che arrivano dopo Little Computer People devono qualcosa a Little Computer People, se vogliamo, direttamente o indirettamente, in maniera conscia o inconscia. Diciamo che Little Computer People è un po' l'inizio di questa cosa, quindi volente o nolente alla fine devi sempre qualcosa a Little Computer People su questa cosa, su tutto quello che è l'interazione con un personaggio. Little Computer People, se vuoi, l'interazione dell'omino con il parser eccetera è simile anche a quella che poi è stata l'interazione dei giochi di Sierra e di e di Lucas. Sì, De Sierra in particolare, infatti lo associavo. De Sierra in particolare perché aveva il parser, ma Lucas, la Lucas, da Little Computer People fu ispirata a creare quella chat virtuale su, che ne abbiamo già parlato, come si chiamava, quella che ci fu negli Stati Uniti, quel primo esperimento di chat virtuale con gli avatar che tu creavi. Sì, mi ricordo, sì, però non mi ricordo. Ok, mi ricordo che ne abbiamo parlato, in effetti. Non mi viene il nome neanche a me in questo momento, però vabbè, se lo troviamo lo scriviamo sulle note, così tanto le note. Ma posso dire che tante intenzioni sono arrivate a raggiungere il proprio obiettivo, quindi il proprio focus, però insomma diciamo che Little Computer People, un esperimento di 35 anni fa su strumenti, diciamo così, limitati, no? Perché chiaramente rispetto a quello Habitat, ecco, ah, Habitat, bravo, sì. Comunque, Habitat della Lucasfilm, Lucasfilm. Sì, sì, era Lucasfilm Games ancora, quindi che esce nell'86 e anche lì dichiararono, dopo c'è un documento, un'intervista, che l'ispirazione di Habitat gli derivò da Little Computer. Ecco, quindi alla fine, andando un po' alla conclusione, appunto, alla fine Little Computer People, appunto, nato su strumenti, insomma, come posso dire, limitati per un certo, perché poi a livello di concezione uno chissà che ci avrebbe voluto mettere dentro, no? All'interno di una progettazione, certo, del genere, no? Però poi alla fine non soltanto è riuscito nel proprio obiettivo, ma possiamo considerare proprio una pietra miliare nel mondo dell'evoluzione del videogioco, proprio per il fatto che appunto è stato reiterato poi, no? Come concludiamo questa cosa su questa leggenda? Ma guarda, è importante secondo me ricordare, cioè, sono contento di aver fatto questa puntata per due motivi. Uno, perché come abbiamo già detto è importantissimo ricordarla e ricordare questo gioco e il suo innesto all'interno di quella che è la storia dei videogiochi, quindi con i prima e con i dopo, come abbiamo raccontato, e anche perché per tanti motivi in realtà noi in Italia non abbiamo vissuto Little Computer People come l'hanno vissuto invece dei nostri, diciamo, coetanei in paesi esteri, dove non c'era noi purtroppo in quegli anni precisi, quindi in quegli anni lì dall'84 a, diciamo, all'89, ma un po' prima e un po' dopo, abbiamo vissuto il periodo della pirateria industriale, cioè abbiamo vissuto quel periodo dove in Italia non esistevano giochi originali, ok? Non era possibile, andavi in negozio, ti davano la copia, andavi in edicola, c'erano le copie, quindi tu non vivevi il videogioco originale, quindi per la maggior parte dei giochi l'esperienza finale era più o meno la stessa, quindi chi se ne frega, nel senso che li abbiamo vissuti in un altro modo, magari con un altro nome, ma li abbiamo vissuti comunque. Ma per giochi particolari come questo, certo, ci siamo persi qualcosa in quegli anni, certo, perché non li abbiamo effettivamente vissuti come è successo. Tu te lo sei ritrovato dentro come una cassetta, ma non sapevi non sapevo niente, ma infatti allora ci siamo persi anche inconsapevolmente, perché a molti probabilmente non assolutamente inconsapevolmente neanche sarebbe fregato niente, no? Nel senso, a tanti, no? Beh, cioè, quello che non sarebbe fregato niente, quello non si può sapere, nel senso, no, di alcuni, non in senso in generale, cioè nel senso, magari uno oggi talmente che non ti sei reso conto di quello che hai perso, che dici vabbè, l'ho perso, tanto non lo sapevo, no? E quindi sì, diciamo che lì il periodo era quello che io poi racconto spesso, del periodo italiano particolare, la famosa pirateria industriale, esatto. La gente non sapeva neanche che stava giocando delle copie, cioè la maggior parte delle persone che giocavano in quegli anni e che compravano le cassette in edicola non sapevano che stavano giocando dei giochi non originali. No. Noi magari, gente che magari leggeva, che si informava, che diciamo aveva una competenza maggiore della media, lo sapeva, ma la gente che comprava la cassettina in edicola dei giochi copiati non stava facendo nulla di illegale e pensava di comprare i giochi originali. Beh sì, ci sono poi due aspetti fondamentali. Uno, la cassettina in edicola, che in qualche maniera, proprio perché veniva in edicola, era istituzionalizzata, quindi per te era originale, no? Nel senso, erano prodotti originali. E dall'altra parte, anche se tu sapevi, perlomeno io, nel senso, sapevo che le cassette erano copiate e tutto quanto, roba del genere, ma anche i floppy disk, quando poi c'erano i floppy disk, roba del genere, ma tu andavi al negozio, quello c'era, eh? Non è che... Cioè, quello c'era, cioè, sì, ti davano i giochi copiati, assolutamente. Io mi ricordo, cioè, che un giorno quando uscì, perché poi questo fenomeno è durato tanto in Italia, eh? È durato veramente tantissimo. È durato circa 10 anni. Circa io mi ricordo che quando è uscito Indiana Jones The Fate of Atlantis, quindi oh, stiamo parlando, non se sto parlando di Maniac Mansion, sto parlando di Fate of Atlantis, e sono andato al negozio, ah, che è uscito The Fate of Atlantis, e boom, e mi dà la scatola in mano. Io dico, ah, come no, in che senso? Che poi non è che costavano 140.000 lire, cioè, non è che allora, esatto. Cioè, no, zitto, ieri è successo anche zitto, perché c'è stato un momento in cui poi hanno scatenato i mastini della guerra, e lì tutti i negozi, sì, dopo il 91, hanno dopo il 91. Pagando esatto, anche improvvisamente, cioè, nel senso, poi alla fine secondo me questa cosa è stata anche ingiustamente incontrollata, questa cosa, perché non perché, ma allora, anche su questo ci sarebbe da fare un'altra puntata. Però in realtà su questo abbiamo una conferenza registrata che ti ho mandato, okay, sì, che verrà pubblicata esatto. Non anticipiamo troppo. Allora, tempo. Facciamo così. Intanto questa bella puntata di archeologia videoludica finisce qui. Ci vediamo il mese, ci ascoltiamo il mese prossimo. L'idea attualmente, così lo sa anche Carlo, è di parlare di Harry Pitfall. Soprattutto parliamo di Pitfall, perché Pitfall, ragazzi, è stato un gioco contro Zebedei, ed è stato il primo gioco in assoluto che ho finito in vita mia, probabilmente uno dei pochi all'epoca. Stiamo facendo le monografiche su David Crane, gioco di David Crane, il prossimo gioco David Crane, poi facciamo Decathlon di David Crane. No, Decathlon. Però vabbè, cioè, nel senso, Pitfall secondo me è un'altra pietra miliare, che poi comunque in qualche maniera anche lì ha non dico ha creato un genere, forse no, per certi versi. Comunque sì, beh, allora anche lì sì, perché il platform a scorrimento orizzontale, se vuoi, nascono un po' tutti dopo Pitfall, quindi sì. Benissimo, poi detto questo, invece, per quanto riguarda archeologia informatica, vi ricordiamo che stanno ogni lunedì più o meno, escono video nuovi sul nostro canale YouTube, quindi andate lì su youtube.com archeologia informatica e iscrivetevi al canale, perché dobbiamo arrivare a 1000, ricordatelo, che questa è una cosa importante. E poi usciremo tra qualche settimana, insomma, cerchiamo di essere più veloci possibili sulla puntata, appunto, dell'intelligenza artificiale, che in qualche maniera è stata slanciata da questa idea di Little Computer People. E poi faremo poi la puntata, insomma, commemorativa su un'altra cosa che non vi diciamo, poi ne parliamo, insomma, sennò poi ci rubate l'idea, infami maledetti. Va bene, ok, grazie a tutti e niente, quindi alla prossima, a breve, ciao a tutti. Porta in tavola il gusto e la bontà di Aia. Acquista un prodotto Aia con etichetta del concorso dal 1 al 24 dicembre e partecipa al calendario dell'avvento. Ogni giorno in palio tanti premi Philips. Regolamento su aiafood.com. Buone feste da Aia.